Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per questa settimana insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini con noi al telefono. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, allora dobbiamo parlare di questa iniziativa contro gli abusivi del benessere. Chi sono gli abusivi del benessere? Sì Francesco, questa volta parliamo di iniziativa ed è l'ultima che l'Adico ha realizzato insieme con la CGA di Mestre. Proprio come hai detto tu, una nuova iniziativa per fare prevenzione contro il fenomeno dell'abusivismo che riguardano i parrucchieri, ma anche quelli che riguardano un po' tutte le attività che hanno a che fare con l'estetica, in particolar modo persone che insomma vanno a casa o esercitano l'attività in neo. Diciamo qual è la tipologia, insomma, a chi è rivolta questa campagna? Sì, la tipologia e anche i numeri, perché in occasione della conferenza stampa di cui è stata presentata ieri possiamo dire che è rivolta contro quelle persone che vanno a incentivare un fenomeno che noi possiamo dire anche di contraffazione, ma di abusivismo, perché ricordiamo che la contraffazione non si tratta solo quando si acquistano prodotti traboccati, ma anche quando si va ad alimentare un'attività in nero che insomma sfugge alle regole, che viene rivolta ai parrucchieri e anche a tutto il mondo dell'estetica, perché sembra che insomma un operatore su tre che va in giro per le case o riceve proprio presso le proprie abitazioni private svolga l'attività in nero, quindi con tutti anche i rischi che questa attività può comportare per la salute e quant'altro. Da un lato ricordiamo c'è il fisco che non introita le tasse, dall'altra c'è la salute, perché sai, i prodotti che poi vengono utilizzati sono prodotti che magari sono certificati o strumenti magari non possono essere quelli certificati. Praticamente persone che fanno i parrucchieri in casa, che vengono a fare i massaggi in casa, e poi che cos'altro ancora? Dopo ci sono quelli che le estetiste, quindi parliamo di chi si fa la ceretta, chi si fa le unghie. Parliamo di tutto un mondo legato alla bellezza, però abbiamo qualche numero anche, per esempio l'Adico, se togliamo quelle che sono le problematiche legate alle bollette, il 9% riguarda un po' le problematiche della contraffazione, perché quando si ha a che fare con questa tipologia di attività ricordiamo che si sfugge alle regole, quindi non c'è un'assicurazione, non ci sono diritti, c'è l'abusivismo, quindi ci sono anche rischi sui prodotti che magari non sono controllati o certificati, i prodotti, gli attrezzi che magari non sono sterilizzati, non parliamo di tatuaggi perché la cosa sarebbe ancora più drammatica, ma ricordiamo come il fenomeno dell'abusivismo riguarda anche questo genere di attività e i prodotti, perché sappiamo che molte volte si cerca di acquistare anche prodotti che non sono marchiati proprio per risparmiare, quindi non solo un risparmio sulla prestazione ma anche sulla qualità. Ecco, voi avete lanciato questa iniziativa, come dicevo, l'Adico insieme alla CGA di Mestre. Quale vuole essere il punto di forza di questa iniziativa? L'informazione? Allora, innanzitutto è un'iniziativa articolata sull'informazione e sui materiali che andremo in questi giorni a distribuire presso tutti gli esercizi, dove metteremo a disposizione tutto quel tipo di informazione che le persone devono fare. A conti fatti abbiamo notato che di fronte anche a quello che può essere un risparmio di una prestazione, questo magari non si traduce sempre in qualità, perché magari usare dei prodotti di un tipo rispetto ad un altro, una piega con degli strumenti diversi rispetto a quelli professionali, magari può durare meno o può creare anche dei disagi diversi rispetto a quelli che sono dei negozi regolari che invece rispondono con corsi di aggiornamento e con controlli anche durante l'esercizio a una certa standard di qualità e di prevenzione, perché poi sappiamo che insomma i rischi che possono determinarsi possono essere tanti e la possibilità di venire di essere tutelati non sempre è facile, in quanto non c'è nulla di regolare, pertanto rischiano anche che i diritti dei consumatori non vengano salvaguardati in caso di controversie. Quindi vengono invitate le persone anche a denunciare se ci fossero o venissero a conoscenza di queste persone che operano in nero. Sì, a denunciare ma anche a non alimentare il sistema, perché poi ricordiamo che questo fenomeno dell'abusivismo crea anche disoccupazione, crea anche rischi di impresa, crea anche insomma tanti altri aspetti che insomma in questo momento non c'è bisogno. Cerchiamo invece di operare nel rispetto di quelle che sono le regole che tutti sono tenuti a osservare e soprattutto non andiamo a esporre la nostra salute per risparmiare magari 5 euro su un taglio. Certo, sperando che magari un giorno si riescano ad abbassare le tasse a tutti questi artigiani, esercenti, e che anche questo magari possa aiutare le imprese abbassando i prezzi e ad agevolare un po' tutto il sistema. Certamente, tutto il sistema deve essere regolamentato, è anche vero che anche chi comunque fa un certo tipo di attività dovrebbe osservare anche delle tariffe a volte più eque rispetto a quelle che sono altre tariffe applicate, perché poi alla fine, alla base di tutto, c'è sempre una rincorsa al ribasso per potersi accaparrare il cliente. Va bene, grazie, bella iniziativa dell'Adico. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il sito dell'Adico, che potete andare tranquillamente a sfogliare in qualsiasi momento, trovate sempre tante belle notizie interessanti. Grazie al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.